E se pure avessi il corpo forte assai, di puro marmo, acciaio, adamantino, già mai sfuggì potesti al tuo destino. In guardia, carogna, e se ti muovi di sfregio, a piazza le zuzzose. Tu dici quintale peso, allora metti mi chiede la barca, correte che l'hai visto, belli figli da devi da fare, ecco Lucaveni, belli figli, dai, corri che sta andando, corri che non lo metti bello, dai, lo vetti, picchia la pioggia, non cedi, te pigliara la femminetta, dritto un cianlu cuori, e chiancia di doluni, ai. E la barca la strascinava, e lo sangue ne corria, e lo masculo chiancia, ai. E lo masculo mi dicia, beggia mia, non chianciri, beggia mia, non chianciri, dimmi di che io fari. Rispunnia la femminetta, con un filo e voce, scappa, amore mio, che si nota citino. No, amore mio, se tu muori voglio morire insieme a te, se tu muori amore mio voglio morire. Con un sarto si trovissa, cucchio cuore a cuore, e così finì l'amore di dopisci sfortunati. Dai, lo vitti, c'è pure lo mascolo, piglia la fiocina, uccidilo. Chi ste una storia d'un pisci squadra storia d'amore.